Happy Radio, sono Matteo Di Fina e vi parlo dallo stadio Campo Sportivo Vincenzo Fattino per la quinta giornata di promozione tra Igea Virtus e SD Cefalù Calcio. La partita è già iniziata da pochi minuti, ma vi diciamo subito la formazione. Per la SD Cefalù Calcio gioca Fiducia, Brocato, compagno Mirko, Geraci, compagno Francesco, Chicchi, Villafranca, D'Amico, Cicero, Cane e Culotta. Per la disposizione di Pino Minutella ci sono il portiere e il secondo portiere Giustiniani, poi Aiello, Castiglione, Guggino, Milia, Zangara, Barone. Per l'equipe Palermo invece gioca Bellavia, Mazzone, Di Leo, Blandino, Lombardo, Sorci, Gennaro, Sannino, Abate, Sanzo, Cocuzza. A disposizione dell'allenatore Gaetano Pagliaro, Romano, Bonanni, Smeraldi, Gifi, tutto il mondo, Quattrocchi, lo dico. La terna arbitrale sarà composta da Tommaselli di Messina, Cazzarà di Trapani, Sancore di Trapani. Al momento siamo al terzo minuto della partita, ancora non è successo nulla di importante in questo tempo, è stato prima però fermato per fuorigioco il giocatore del Cefalù Cane e adesso la palla è alle mani della difesa del Borgonò, dell'equipe di Palermo, scusate. Adesso sbarziamo a centrocampo dove D'Amico controlla la palla, spinto però da Sarnino, e sarà rimessa laterale però per il SD Cefalù. Si incarica della battuta del calcio di punizione Villafranca che la passa a D'Amico che cerca di smarcarsi i due giocatori, viene spinto e buttato a terra, ma non è tutto regolare, siamo adesso nell'area di rigore. Geraci la passa in mezzo per compagno, solo che compagno non intende l'intenzione del compagno di squadra e la palla finisce fuori. La rimessa dal fondo per il portiere Bellavia che sistema il pallone sul dischetto della sua area e parte per la battuta. Il Cefalù presenta il suo solito modulo, il 4-4-2 con i difensori, con la linea difensiva formata da Brocato, compagno e Schicchi. Al momento infatti il Cefalù ha subito soltanto 3 gol, al contrario dell'equipe che nell'ultima partita di campionato ha avuto una pesante sconfitta contro l'Igea Virtus per 6-0. A volte è stato fischiato un fuorigioco nei confronti di Sanzio che era partita in posizione irregolare. Va, il Cefalù adesso va in avanti, cerca di andare avanti con Mirko Compagno che la passa lunga ma sbaglia il passaggio, la intercetta Sorci che riprova a prenderla ma interviene Compagno che la manda sulla rimessa laterale. Adesso è l'equipe di Palermo che lascia, c'è cioè il numero 9 Abate che lascia la battuta a Mazzone, ma viene fischiato il cambio di battuta per una battuta irregolare da parte di Sorci. C'è Compagno che la passa a Totocane che cerca di allargare la palla a D'Amico, soltanto viene intercettato il pallone. Prende la palla adesso Schicchi che la passa a Brocato di nuovo sulla fascia per Cane, che ne cerca un compagno, lo trova in Geraci in posizione centrale, che allarga subito per Francesco Compagno, che cerca un altro compagno libero e torniamo al centrocampo con Geraci subito in mezzo per Culotta prova ad arrivare un pallone. Ma viene toccato, il pallone sarà rimessa dal fondo. Vediamo se l'arbitro cosa ha deciso. Sì, no, sarà calcio d'angolo per SD Cefalù Calcio. Calcio d'angolo andrà alla battuta Villafranca. Gran Mucchio già subito in area di rigore con gli unici difensori rimasti a difendere la retroguardia del Cefalù con Brocato e Schicchi. Grande confusione in area, c'è subito grande smarione, l'arbitro fischia però interviene richiamando i giocatori dicendogli di stare anche un po' più calmi in questa fase offensiva. Vediamo subito che comunque c'è un grande gruppo, come l'unico rimasto in attacco per l'equipe Palermo è Sanzo. L'arbitro fischia il calcio d'angolo, c'è la persona in mezzo per Cicero che tocca il palo, il portiere battuto ma il palo salva l'equipe Palermo. Bellissimo calcio d'angolo da parte di Villafranca, ma il palo dice no al possibile gol del vantaggio dell'SD Cefalù Calcio. Adesso si riparte con un calcio di punizione sulla tre quarti per l'SD Cefalù Calcio, se ne incarica Geraci. L'arbitro va a prendere la distanza, è stato pignato prima atterrato Villafranca. Adesso c'è il calcio di punizione dalla tre quarti, abbastanza rischioso per gli ospiti di casa. Vediamo come si evolverà questa situazione. L'arbitro prende la distanza, si mette in posizione. Ultimo uomo rimane Schicchi. E tutti in aspetta, allora Gera, scusa, Schicchi la mette in mezzo, in condizione di continuità, la gol! E c'è un falso amico, D'Amico con un colpo di testa, segna il gol del vantaggio. D'Amico quindi sfrutta un ottimo calcio di punizione da parte di Villafranca, che viene messo di nuovo in mezzo la palla da parte di Geraci, poi la ripassa alta a D'Amico. D'Amico non può che appoggiare di testa per il gol del vantaggio. Al minuto settimo il Cefalù passa in vantaggio con il gol di D'Amico, che va giustamente ad ricevere gli applausi e il gradimento da parte dei suoi compagni. Quindi Cefalù in vantaggio 1-0 D'Amico, e si riparte adesso dalla linea di metà campo con l'equipe che cercherà sicuramente in tutti i modi di riacciuffare il pareggio. Attenzione adesso, comunque si riporta in posizione di offensiva subito il Cefalù, che pressa alto con Cicero, che però viene fermato, resta la palla sulla fascia destra, però Brocato intercetta il pallone, però sembra che l'ultimo tocco sia stato del giocatore dell'Equipe Palermo, Di Leo. Va alla battuta Brocato, che la passa a D'Amico, che però viene strattonato, ma l'arbitro non vede nessun fallo. Adesso il pallone è a Sorci, che cerca il compagno Abate, ma subito il pallone all'attacco, interviene Schicchi di testa e rilancia lontano. Di nuovo l'Equipe Palermo alla ricerca del pallone, viene spinto in maniera irregolare Villafranca e sarà calcio di punizione per l'SD Cefalù Calcio. Partono molti lamentele nei confronti dell'arbitro, perché i giocatori dell'Equipe di Palermo credevano che non era fallo, ma l'arbitro fischia subito. Siamo al nono minuto, quindi da pochissimi minuti il Cefalù Calcio è passato in vantaggio con il gol di Angelo D'Amico. Adesso palla a se stesso, è grande errore da parte di compagno, Villafranca riesce a recuperare la palla e con una grandissima finta interviene, ma viene fischiato il fallo perché era stato calciato in precedenza da Gennaro. Calcio punizione per la SD Cefalù Calcio. Veniamo, andrà alla battuta Mirko Compagno. Siamo vicino siamo nella fascia laterale, vicino alla tre quarti difensiva del Cefalù. Il compagno subito la mette in mezzo per Cane vuole fare sfilare la palla, prende il volo D'Amico, che tira il volo, ma viene intercettato dal difensore. Il contropiede dell'equipe di come Sanzo che cerca qualche compagno, ma viene spinto in maniera irregolare dal numero 2 della SD Cefalù Calcio, Brocato. L'arbitro avvicina a Brocato, ma attenzione, stava ripartendo l'azione dell'Equipe Palermo. L'arbitro fischia perché voleva scambiare due parole col difensore dell'SD Cefalù Calcio. Calcio di punizione per il Cefalù, quasi oltre la linea di centrocampo. Andrà alla battuta Sarnino, che sta cercando qualche suo compagno libero, ma subito una battuta corta, la pallone di nuovo in mezzo, arriva compagno, lascia però sfilare delle mani di Fiducia, che può controllare tranquillamente il pallone. Fiducia di nuovo a compagno per Geraci, che prova lo scatto, la passa in alto, ma c'è stata una manata ai confronti di Culotta. L'arbitro non ha visto niente, c'è Culotta che comunque si sta lamentando con l'arbitro, ma l'azione comunque la viene condotta adesso dall'Equipe Palermo con Di Leo la passa adesso a Sorci sulla fascia laterale vicino alle panchine. Adesso di nuovo Blandino a controllare la palla, la parola per una serie di contropiede, pallone di nuovo in mezzo per Cucuzza, che però sbaglia e spinge involontariamente compagno, ma sarà calcio di punizione per il Cefalù. L'arbitro ha visto un fallo sul contatto abbastanza aggressivo nei confronti di compagno, andrà la battuta di questo fallo poco dal limite dell'area di rigore da Fiducia. Fiducia cerca qualche compagno libera, la rimette lunga per D'Amico. D'Amico cerca di stopparlo di testa, ma viene spinto in maniera abbastanza plausibile da parte di Sanzo. L'arbitro fischia e assegna però la rimessa laterale per l'Equipe Palermo. Nuovamente l'Equipe Palermo prova ad andare all'offensiva, ma D'Amico controlla la palla e fa ripartire i suoi. Geraci però troppo fretta di riniziare l'azione, perde palla. Adesso è Gennaro prova il tiro deviato. Rimarrà rimessa dal fondo, non c'è stata, scusate, nessuna deviazione, e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo. un Sepolu che al momento sembra molto meglio messo in campo dal mister Pino Minutella, un equip Palermo che prova a dare risposta al, al gol segnato al, all'ottavo minuto da D'Amico, ma al momento il Sepolu sembra che stia controllando bene la partita. Rimessa lunga da parte di Fiducia che la passa a Geraci, Geraci di nuovo a Cane, Cane di nuovo Geraci, 1-2, palla lunga per Cicero, ma viene fermato dal difensore Mazzone che lascia sfilare il pallone alle mani del proprio portiere Bellavia. Bellavia rimancio lungo con i piedi, ma viene intercettato la linea di centrocampo, Cane prova a trovare Domenico, Domenico prova a nuovo, attenzione, di nuovo Cicero, Cicero in mezzo per Cane, controllo di testa, però va a controllare poi il portiere con un'uscita tranquilla di mano e sfuma l'azione offensiva da parte del Cepolu Calcio. Bellavia adesso aspetta il riposizionamento dei suoi compagni, comunque c'è da dire che il Cepolu ha avuto anche un'ottima idea, l'ottimo scambio tra Culotta Cane, peccato che si è spento il tutto in una presa facile da parte del portiere. Adesso è l'equipe Palermo che cambia fronte, la prende palla Gennaro sulla linea delle tre quarti, Gennaro ancora lui, si smarca Cicero ma cerca di terminare Cane, Gennaro ne fa fuori tre ma rilancia lunghissimo D'Amico spazzando via dall'area e se la rimessa laterale vicino all'area del portiere avversario. Adesso andrà alla battuta della rimessa laterale Mazzone che sta cercando qualche compagno libero. C'è comunque da dire che il Cepolu è ben schierato in campo con tutti i giocatori dell'equipe Palermo marcati. Crediamo che la marcatura proposta da Pino Minutella sia a uomo, ma nel frattempo è ripresa già l'azione. Subito il pallone viene messo in mezzo da Blandino, ma Blandino a Sanzo, Sanzo che prova il attaccante libero, ma interviene il Cepolu. Villa Franca per Geraci sulla fascia destra, Geraci al grande campo, può scattare, Geraci solo sulla fascia, viene intercettato però dal numero 7 Gennaro, e il Cepolu però recupera di nuovo palla con Villa Franca, Villa Franca sulla fascia, la mette in mezzo per Culotta, Culotta non ci può arrivare, viene intercettato dal difensore. La palla viene presa però da compagno, passata male di testa, broccato però con un ottimo controllo, riesce a bloccare la palla e deve pure la rimessa laterale conquistandola, facendola sbattere il pallone sul difensore dell'equipe Palermo di Leo. Rimessa quindi laterale a favore del Cepolu, andrà la battuta D'Amico. Come ho detto, D'Amico lascia l'impegno della battuta a Villafranca che si avvicina lentamente al pallone. Vediamo che il Cepolu si sta rivoltando tutto in attacco, ma sarà anzi un calcio di punizione per in precedenza fatto dal numero 3 di Leo. Adesso andiamo a Villafranca che la va a mettere in mezzo, pallone lunghissimo e la tocca in play, Geraci, Cicero, Cicero, lascia Cane, Cane la mette in mezzo e se lo mangia clamorosamente da Dico, il gol del raddoppio, ma il gol da Line l'ha fischiato per fuori gioco. Quindi sarà ripresa in gioco da calcio di punizione a favore dell'equipe Palermo, un gol quasi clamoroso mangiato da Dico, salvato se così vogliamo dire dal fuorigioco chiamato dal signor Cassarà. Adesso viene buttato fuori la palla da parte di D'Amico, vediamo adesso come risponderà l'equipe Palermo, comunque il Cepolu in netta dominanza di questa partita. Adesso viene fischiato un fallo ai favori dell'equipe Palermo, è stato atterrato Sarnino, si riprende subito con un... viene subito lanciato la palla, ma l'arbitro richiama la palla in gioco visto che ancora non aveva fischiato la ripresa della partita. Andrà alla battuta Blandino che subito la batte veloce per Gennaro, Gennaro nuovamente lunga per Sanzo, Sanzo però non riesce a controllare e la spinge fuori, quindi rimessa laterale a favore dell'SB Cepolu. Va a raccogliere la palla Broccato che cerca qualche compagno libero, siamo vicino all'area di rigore del Cepolu, nessuno, i giocatori non vengono, del Cepolu non vengono prestati secondo me in maniera abbastanza decisa. Subito però viene recuperata palla dal Cepolu con Culotta che fa rimbalzare la palla contro il piede, ne viene spinto in maniera abbastanza pesante da parte del difensore dell'equipe Palermo Lombardo e viene fischiato il calcio di punizione a favore dell'SD Cepolu Calcio. Siamo al 15° del primo tempo, vi ricordiamo il risultato, il Cepolu è in vantaggio con gol di D'Amico all'ottavo del primo tempo. va adesso stick in mezzo, ma non riesce a trovare nessuno, viene intercettato il pallone dall'equipe Palermo, e adesso è Lombardo che la passa a Sorci, ma viene intercettato il pallone da parte di Compagno. Adesso l'equipe che prova in attacco, Geraci che prova, riesce con un grande numero a prendere il pallone e ne è spinto in maniera plausibile il Compagno, ma l'azione continua. E se D'Amico della linea di centrocampo, D'Amico lunghissimo per Compagno, ma la palla viene intercettata. Geraci fa quindi scivolare la palla in rimessa laterale per conquistare la rimessa in gioco a favore della Cefalù. Adesso che andrà alla battuta compagno Mirko, cerca e trova Cane che torna indietro per cercare un compagno, ma viene intercettato la palla da Blandino però perde palla, la recupera Geraci 1-2 con Cane, viene toccato il pallone però con un grande rilancio dal numero 2 Mazzone e sarà rimessa in gioco a favore del Cefalù. Compagno lungo per Cicero e il Cefalù conquista un calcio d'angolo. Cefalù, in questo momento stiamo vedendo una partita abbastanza offensiva da parte del Cefalù Calcio. Si vede comunque il mister Minutella li ha molto richiamati nei confronti della partita contro il Paraponese della scorsa settimana, finita 1-1 per gli uomini del Cefalù, un pareggio diciamo immeritato visto i valori messi in campo dalla squadra cefaludese. Questo è calcio d'angolo, battuta di Villafranca che la mette in mezzo lunga per Cane, che però non riesce a schizzare bene di testa, e riparte l'equipe di Palermo con Sanzo di nuovo prova il numero 2 con Cane però lo spinge e sarà comunque calcio di punizione per l'equipe Palermo. Cane va a chiedere scusa al giocatore a spingere Sanzo, gli va a chiedere scusa e subito però riprende la partita con Lombardo che la vuole mettere in mezzo per Cucuzza che però perde palla, viene spinge D'Amico per fermare l'azione di nuovo, Cucuzza tira e però viene subito presa da parte di Fiducia che blocca in presa sicura il pallone aspettando così che i suoi compagni si riposizionano in campo. Siamo subito, Fiducia la rimette lunga in mezzo ma è intercettato da Gennaro però viene sul campanile preso da Gennaro, Cicero stoppa la palla, prova a cercare di scattare sulla fascia, Cicero stoppa il discellare di gol, viene spinto e messo a terra e sarà calcio di punizione, il primo cartellino giallo della partita viene dato al numero 4 Blandino quindi è munito per intercettare l'avanzata da parte di Cicero. Scusate, anzi, il numero era Mazzone, che è stato ammonito per fallo, per fermare il giocatore Cicero che si era andato via da solo per l'area di rigore. Quindi sarà adesso calcio di punizione vicino all'area di rigore da parte di Bellavia. Avremo un calcio un pochino spostato verso destra, in posizione centrale. Vediamo adesso la barriera che si va a formare, i tiratori delle punizioni del Cefalù sono Geraci e Villafranca, vedremo ora chi andrà alla battuta, si allontana Geraci e andrà alla battuta Villafranca. La barriera è messa sono quattro uomini in barriera, viene a dare fastidio D'Amico, vediamo adesso che però D'Amico si allontana e ci sono molti uomini in attacco, adesso Villafranca fa partire il tiro e si avvicina all'incrocio, ma la palla si spinge e si spegne alta sopra la traversa. Quindi il Cefalù ha avuto già molte occasioni per andare al raddoppio, al contrario dell'equipe Palermo che sembra non muoversi molto in campo, lasciando quindi l'iniziativa all'SD Cefalù Calcio. Va la battuta della rimessa dal fondo Bellavia, che chiama i suoi giocatori di avanzare. Bellavia adesso prova la rimanda lunghissima per il numero 8, Fernino però che perde palle, Cane la riconquista, però viene intercettato da Blandino. Benissimamente la rimette altissima verso Gennaro la stoppa di testa ma la intercetta D'Amico spinto ma viene giustamente chiamato un fallo perché viene stato atterrato in precedenza D'Amico. A incaricarsi della battuta subito Villafranca che la passa larga per Broccato vuole qualche difensore, vuole che qualche giocatore avanza, Broccato se ne fuma uno, la rimessa in destra per Villafranca lo è in mezzo, intercettato il pallone da Sorci, riparte la posizione offensiva dell'equipe Palermo, subito il pallone lungo per Cucuzza in contro due, ma viene fermato irregolarmente da Ciccio Compagno e sarà calcio di punizione da una posizione abbastanza insidiosa. Vediamo che comunque è stato chiamato un fuorigioco ai danni del numero 11 Cucuzza, che era partito quindi in posizione di offside. Adesso va la battuta Ciccio Compagno, che è la mente lunga per troppo lunga, infatti viene subito presa della difesa. Pieracci, già ce la passa Ciccio, prova un tiro al volo, ma è inutile perché l'arbitro ha fischiato per fuorigioco ai danni del Cefalù Calcio. Cefalù adesso si sta rimettendo in posizione, siamo qui a Palermo, c'è una giornata di sole, il campo è sembrato un po' a tutti i giocatori abbastanza pesante, è anche molto duro, ma subito torniamo in azione con Ciccio che però viene rubato la palla da Blandino, recupera la palla con Villafranca, atterrato irregolarmente da Sorci, che viene ammonito per gioco scorretto. Abbastanza fallosi i giocatori dell'equipe Palermo, che cercano di fermare l'azione offensiva del Cefalù con dei falli abbastanza rischiosi, perché ad esempio il fallo in precedenza di Mazzone poteva anche rischiare qualcosa di più, visto che ormai Ciccio se n'era andato indisturbato verso l'area di rigore avversaria. Andrà adesso la battuta, c'è il solito pennallotto tra Geraci e Villafranca, ma sembra che questa volta andrà la battuta Geraci. L'arbitro prima di far ribattere questa punizione chiede la distanza da parte dei difensori dell'equipe Palermo, ma comunque si allarga adesso sulla destra Mirko Compagno. Invece nell'area di rigore troviamo Cicero, D'Amico, Culotta, Cane e Brocato. Va Geraci la battuta, parte il tiro, però no, la barza da Villafranca, fa partire il tiro, ma si spegne altissimo sopra la traversa. Un'ottima opportunità per l'SD Cefalù Calcio, ma la palla si va a spegnere alta sopra la traversa. Ora vediamo un po', va di nuovo alla battuta Bellavia. Siamo al 25esimo minuto e vi ricordiamo il parziale. ASD Cefalù Calcio 1, Equipe Palermo 0. Va Bellavia, rimessa lunghissima per il suo difensore Lombardo, viene intercettato, viene poi passata la palla lunga a Ciccio prova ad arrivarci, ma la palla si spegne sulla rimessa laterale. Rimessa laterale a favore dell'equipe Palermo, andrà alla battuta Blandino, mi sembra. Va Blandino che cerca qualche compagno libero, ma sono tutti ben marcati dall'SD Cefalù Calcio. Viene intercettato il pallone da Compagno, campagna per Cane prova il passaggio a Culotta, però viene fermato l'azione e sarà calcio di punizione per l'SD Cefalù Calcio. Abbiamo visto una strattonata abbastanza pesante da parte del difensore Di Leo e sarà quindi calcio di punizione per l'SD Cefalù Calcio dal limite dell'area di rigore. Cioè, in grande mucchio adesso in area davanti al pallone troviamo D'Amico, Geraci e Villafranca, che stanno discutendo su chi dovrà battere questo calcio di punizione, un'opportunità anche abbastanza ghiotta per andare per raddoppiare il risultato. Vediamo adesso chi andrà alla battuta, sembra che ci va Geraci e D'Amico va a disturbare la barriera, si allontana adesso anche Cane e andrà alla battuta probabilmente Geraci si sistema la palla, vediamo l'arbitro che conta i passi della distanza, viene spinta addirittura via D'Amico, che è andato a dar fastidio alla barriera. Nel frattempo rivediamo che comunque la linea difensiva del Cefalù rimane sempre compatta con Brocato, Compagno e Schicchi che rimangono sulla linea di centrocampo. Ma Geraci l'ha battuta, va al giro, ma attenzione, intercettato dalla difesa, dalla barriera, di nuovo Geraci che controlla la palla e vede l'uomo libero come Compagno, vengono spinti tutti e due in maniera abbastanza flessibile, adesso però che c'è qualche screzio con Gennaro. Rimessa laterale adesso a favore dell'equipe Palermo, va alla battuta Blandino per Sarnino che lo prova a mettere in mezzo, ma viene intercettato col petto da Villafranca, di nuovo riparte in posizione difensiva dell'equipe Palermo. Di Leo la mette in mezzo per Gennaro sulla fascia destra, prova a liberarsi di Compagno, la mette in mezzo, ma Compagno con la schiena riesce a prendere il pallone. Adesso è Geraci a prendere palla, prova a Ciccio con due con Cane, viene fermato dal difensore dell'equipe Palermo. Adesso è Schicchi che controlla la palla, la passa lunga per Geraci che prova il primo controllo, però c'è un contatto di gamba tesa ai danni di Geraci, poi successivamente è stato atterrato in maniera irregolare Cicero da Mazzone, che si era in precedenza già ammonito. Adesso andrà alla battuta Compagno. Compagno va a posizionare la palla oltre la linea di centrocampo, va a cercare un compagno libero, la mette lunga per D'Amico. D'Amico viene però intercettato da Lombardo, subito però Pino Brocato la mette in mezzo per Cicero. Cicero stop di piede, ma l'arbitro interrompe per fuorigioco. Adesso di nuovo Gennaro a prendere l'iniziativa, però subito Villafranca in corsa riesce proprio a prendere palla. I due si strattonano, vediamo un po' cosa sceglierà di fare. L'arbitro però ha il cartellino giallo in mano e va ad ammonire il giocatore dell'equipe Palermo, Tileo. Viene quindi, sono tre cartellini gialli per l'equipe Palermo, al contrario del Palermo, del Cefalù, scusatemi, che sta comunque controllando bene la partita senza compiere nessun fallo. Adesso c'è un calcio di posizione a favore del Cefalù sulla quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Andrà la battuta Villafranca, ma sembra che comunque il gioco sarà un po' ritardato perché ci sono molte spinte in area di rigore. Troviamo comunque a contendersi il pallone D'Amico e Geraci adesso si allontana, andrà alla battuta Villafranca che proverà a mettere il pallone, questo pallone in mezzo e cercare il gol del raddoppio. Vediamo, adesso l'arbitro conta i passi, grande Muccio in posizione difensiva e fischia l'arbitro, passa dalla Villafranca, la mette in mezzo, colpo di testa che si va a spegnere in alto, deviato dal numero 4 Blandino, e sarà quindi calcio d'angolo per l'SD Cefalù Calcio. Calcio d'angolo che va dove andrà alla battuta Villafranca, che con a piccoli passi si avvicina alla lunetta del calcio d'angolo. Vediamo che comunque già molto un gran bel Muccio in area di rigore con Cane e Culotta e Chicchi, che è già assegnato di testa sul calcio d'angolo nella prima partita del campionato di promozione. Vediamo adesso come si evolverà la situazione. Adesso parte Villafranca, si tira la palla Villafranca, l'arbitro richiama la distanza del pallone, vuole che la palla sia messa nel punto giusto. Vediamo adesso Villafranca, che l'arbitro fischia, parte Villafranca, la mette in mezzo ma è bassa, viene facile presa da parte di Blandino però non controlla, viene ripresa però la palla da Gennaro che scatta sulla fascia, subito velocissimo il terzo blu, ma subito D'Amico che intervento riesce a bloccare il pallone e a rimetterlo in rimessa laterale. Subito però l'equipe Palermo non vuole perdere tempo, pallone lungo per Sanzo intercettato da Mirko Compagno, la palla viene presa da Villafranca che però viene spinta in maniera quasi irregolare da Gennaro e l'arbitro giustamente fischia il calcio di punizione a favore, no, viene fischiato il calcio di punizione a favore dell'equipe Palermo, forse per un fallo da parte di Villafranca. Va alla battuta il numero 6 Giorgi, vediamo quello che cioè comunque il Cefalù è quasi tornato tutto in difesa tranne Cicero sulla linea, attenzione, viene subito Giorgi, la mette in mezzo, attenzione a Fiducia che viene spinto a terra dopo aver preso il pallone, il pallone era suo tra le mani, ma il numero 10 Sanso per la folga per prendere il pallone spinge a terra l'estremo portiere del Cefalù e fischia così, l'arbitro fischia così il calcio di punizione per l'SD Cefalù Calcio. Va alla battuta Fiducia che la mette lunga in mezzo per D'Amico che però viene placcato da Sanso, quindi riparte l'equipe Palermo con il numero 11 Cocuzza di nuovo per Blandino che però controlla male la palla, si lamenta pure con i suoi compagni perché la palla non capita bene dal numero 10 Sanso, si va a spegnere sulla rimessa laterale. Bloccato per Schicchi adesso, Schicchi che cerca qualche compagno in mezzo, lo trova però in Villafranca che è più vicino a lui. Di nuovo palla Schicchi che va al rilancio lungo per evitare qualche danno, ma il suo rilancio è intercettato da Sorci. Adesso di nuovo Schicchi che però prende la palla, viene presa la palla da Fiducia che con il piede rilancia lungo per Cane non arriva, però vede c'è una stretta addirittura preso, bloccato da Culotta, ma l'arbitro addirittura chiama il fallo per il Cefalù sulla linea di centrocampo. Fallo quindi fatto da Culotta, siamo vicino al dischetto del centrocampo, palla lunga per Abate intercettato da un amico di testa, di nuovo il Cevolun che controlla palla con Villafranca, Villafranca in mezzo a terra per Culotta che però perde palla ed è presa di Blandino, Blandino adesso di nuovo a Lombardo, Lombardo per Gennaro, siamo sulla tre quarti del Cevolun, ma con facilità sbaglia il passaggio e Villafranca adesso riposizionare i suoi, pallone in mezzo adesso per Geraci, Geraci però non controlla bene e lascia il pallone a Blandino. E adesso è Abate, Abate sulla fascia destra, chiede il compagno Gennaro di allentarsi, ancora Blandino, scusate, Sanzo, Sanzo la mette di nuovo al centro per Gennaro che cerca subito adesso il pallone, ma l'arbitro fischia per fuorigioco. Fuorigioco per l'equipe Palermo che si stava proponendo in una bella azione offensiva, soltanto che l'arbitro ha il signor Guadagnini e il signor Sanacore ferma tutto per fuorigioco. Adesso è Fiducia che sistema con tranquillità la palla e va a cercare il qualche compagno in posizione offensiva, va al rilancio lungo Fiducia, il pallone viene preso da Cicero che però viene preso di testa da parte di Blandino, Blandino adesso di nuovo per Gennaro sulla fascia destra e di nuovo scambio con Sorci, Sorci che però viene attirato da Cicero, nessun fallo, Domenico, scusate, Culotta, Culotta solo davanti all'area di rigore, Culotta però cerca di controllare il pallone per avere qualcosa di meglio, Culotta ancora fermato in maniera in maniera abbastanza irregolare il numero 3 di Leo e si parte con un fallo laterale e avere un fallo a favore del CUS dell'equipe Palermo. Adesso di nuovo il Cefalù che però conquista palla dopo una rimessa, dopo un passaggio sbagliato da parte di Blandino, andrà alla rimessa laterale Geraci, Geraci che cerca un compagno libero, lo trova in Villafranca, Villafranca la prova a rimettere in mezzo, prova ad arrivarci con uno scatto d'amico, ma ormai il pallone si spegne sulla rimessa dal fondo, lasciando così il pallone al portiere Bellavia. Siamo al 35esimo, vi ricordiamo il risultato, ASD Cevolun Calcio 1, Equipe Palermo 0, al settimo minuto d'amico. Adesso subito l'equipe Palermo prova a ripartire con un pallone lungo dalla difesa, la prende Compagno che prova a cercare Cane che viene anticipato dal difensore. E adesso è D'Amico che la prova a passare a Geraci, Geraci che va in pressione da Lombardo ma viene però spintonato e perde palla. E adesso nuovamente il giocatore numero 5 Lombardo che prova a far girare palla nei confronti di Sarnino, Sarnino adesso largo sulla fascia sinistra. Ad Abate, Abate prova qualche compagno libero ma la palla viene intercettata da Brocato e fa ripartire suoi, Geraci adesso su linea di centrocampo per Cicero, Cicero controlla la palla con un sombrero e adesso si allarga la palla a Compagno, Compagno che per forza la palla riesce a prenderla in velocità, la deve mettere poi in mezzo, la palla arriva a Culotta ma Culotta prova il tiro e viene toccato dal difensore Blandino e sarà calcio d'angolo del Cefalù, che siamo al terzo calcio d'angolo del Cefalù, ricordiamo che il Cefalù al momento è in vantaggio con il gol d'amico al settimo minuto e adesso sicuramente il Cefalù cercherà il gol del vantaggio, andrà nuovamente alla battuta della rimessa in gioco Villafranca, vediamo adesso Villafranca che sistema la palla sulla lunetta del calcio d'angolo, grande mucchio in attacco, rimangono gli 11 uomini bassi del Cefalù. Schicchi e Brocato, l'arbitro richiama i difensori del tipo Palermo, batte subito la parte, subito parte alto il pallone di Villafranca, non riesce ad essere verso nessuno, c'è poi successivamente Geraci ma la palla si spegne sulla fascia laterale, quindi rimessa a favore dell'equipe Palermo, palla a Sarnino, Sarnino adesso cerca lo scatto del suo compagno il numero 11 Cocuzza, Cocuzza adesso solo contro tutta la difesa dell'Esercizio del Calcio ma la palla, si allunga la palla e finisce in rimessa laterale, nessun rischio quindi per il portiere Fiducia che al momento non è stato quasi impegnato completamente, una partita quasi d'allenamento potremmo dire in questo momento per la difesa del Cefalù Calcio che sta controllando in maniera magistrale gli attacchi dell'equipe Palermo. Adesso viene spinto a terra D'Amico, viene fischiato però attenzione, D'Amico rimane a terra, interviene l'arbitro fischiando la pausa del gioco. Vediamo l'arbitro che si va a sincerare le condizioni del centrocampista del Cernuccio, avviciniamo al 40esimo del primo tempo, con il Cefalù dominante in questa prima fazione di gioco, con l'equipe Palermo che è sembrata abbastanza scadente nella preparazione della partita, ma soprattutto molto scarsa nella posizione offensiva. Al momento c'è l'arbitro che pure si abbevera, è una giornata veramente molto calda in quel di Palermo. L'azione sembra lontano dalla ripresa, c'è adesso l'amico che sta lentamente rialzandosi, viene invitato a lasciare momentaneamente il campo. Adesso la palla andrà alla ribattuta all'equipe Palermo, andrà alla battuta della rimessa laterale Lombardo. Vediamo un po' quello che il Cefalù Calcio subito messo allerta da parte di Pino Montella, subito palla però rimessa laterale, si spegne, viene intercettata da Villafranca. Vediamo però l'arbitro che assegna la rimessa laterale a favore del Cefalù Calcio. Andrà alla battuta Brocato che cerca qualche compagno libero. Vediamo subito che c'è però molta maletta in campo. Adesso pallone a D'Amico, D'Amico lungo per Culotta che però non può arrivare a questo pallone. Bella via, controlla facilmente. Bravia la rimette di nuovo in gioco passandola a Mazzone. Mazzone ora cerca qualche compagno libero, la fa una rimessa lunghissima per il numero 9, Abate, intercetta Schicchi e subito D'Amico va a prendere la palla a Cocussa, ancora D'Amico che combatte con Cocussa ma perde la battaglia. E adesso c'è Di Leo che avanza ma viene fermato in maniera magistrale a parte di Cane. Sembra che però l'arbitro abbia fischiato il fallo ai danni del Cefalù, mi è sembrato che comunque l'intervento era pulito, quindi sulla palla. Comunque sia sarà calcio di punizione ai favori dell'equipe Palermo. Vicino alla panchina di mister Minutella andrà alla battuta Sorci. La barriera è composta da due elementi, quindi da Cane e da Culotta. Vediamo adesso quello che cercherà di fare l'equipe Palermo. Va alla battuta, il pallone in mezzo, ma è facile presa da Brocato. Subito riparte il Cefalù con Cane, lunghissimo il pallone per Culotta, però il pallone è molto impreciso e la palla si spegne sulla fascia laterale con Culotta che non riesce a intervenire. Siamo allo scadere quasi del primo tempo, siamo circa al 45esimo. Viene però fissato un fuorigioco adesso per l'equipe Palermo. Stavo dicendo, siamo al 45esimo quasi del primo tempo, il Cefalù è in vantaggio già dal settimo minuto con il gol di D'Amico. Adesso va Schicchi alla battuta, la passa a compagno, Villafranca di nuovo a compagno, la passa adesso per girare la palla, il Cefalù Schicchi veloce, perde palla contro il numero 11 Cocussa, ma interviene subito Fiducia che spazza via il pallone. Che pericolo per il Cefalù che con questo errore poteva rischiare di compromettere una partita dominata senza nessun dubbio da parte dei nostri giocatori. Adesso è Culotta che perde palla, ma Cocussa parte in posizione di fuorigioco ed sarà calcio di punizione a favore del Cefalù Calcio. Sto dicendo, Culotta e Schicchi ha controllato male il pallone dando la possibilità al numero 11 Cucuzza di andarsene solo indisturbato contro Fiducia. Chicchi è andato poi ad aiutare, è stato tornato in difesa ed è stato aiutato da compagno, permettendo così l'estremo difensore del Cefalù Calcio di recuperare il pallone e spazzare in avanti. Adesso punizione parte di Cicero che la mette in mezzo per Cane controlla di testa in mezzo per Cicero adesso di nuovo di testa per Geraci, cioè Cane che tira il volo! Un tiro indescrivibile con Cane che fa rimbalzare il pallone quasi davanti al portiere. I riflessi però sono pronti da parte di Bellavia che tocca il pallone quasi all'estremo, togliendo un pallone dal fuorigioco, dall'angolino alto della porta. Però comunque quasi siamo sicuri che sarà questa l'ultima azione, l'ultimo calcio d'angolo della partita. Andrà alla battuta Villafranca, comunque che occasione sprecata per il Cefalù, ma grandissimo Bellavia, il portiere dell'equipe Palermo, che riesce a prendere un pallone che sembrava, secondo noi, già diretto in porta. Il solito Varione in area diventa attaccata subito, il pallone viene intercettato però da Blandino al centro dell'area, subito riparte l'equipe Palermo con Gennaro si smarca a compagno, ma Gennaro però viene rimessa laterale. Con questa rimessa laterale Subito primessa laterale a favore dell'SD Cervello Calcio. Subito va alla battuta Mirko Compagno, che cerca qualche compagno libero, la passa adesso a Cicero con il centrale, però Gennaro la intercetta, Geraci subito, pallone lungo in mezzo per Culotta. Culotta ha fermato in maniera irregolare da Di Leo, ma l'arbitro lascia giocare. Bella via, stoppa poi la palla e la rimette subito in gioco per Blandino. Blandino che controlla il pallone e la rimanda a Sorci. Adesso è in posizione offensiva l'equipe Palermo. Schicchi però, sembra questo rilancio è troppo lungo. Schicchi controlla il pallone, viene però spinto in maniera plateale da parte di Abate, che con troppa foga ha cercato di prendere il pallone. E sarà quindi calcio di punizione ai favori dell'SD Cervello Calcio. Va alla battuta il numero, va alla battuta del calcio della ripresa in gioco. Fiducia la va adesso a mettere lunga e mezzo per D'Amico, però il pallone si va a spegnere sulla rimessa laterale. Non molto preciso il rilancio lungo da parte dell'estremo difensore dell'SD Cervello Calcio, che regala così una rimessa laterale ai favori dell'equipe. Per attenzione, viene fischiato adesso un calcio di punizione a favore del KIT Palermo, con il numero 10 che si va a lamentare con il signor Tommasello per una trattenuta irregolare nei confronti fatta da Brocato, che sventura il cartellino giallo, ma l'arbitro è andato a muso duro ribadendogli che è il suo lavoro arbitrale, quindi saprà lui il momento giusto per estrarre il cartellino. Adesso va il capitano Di Leo, ci sembra, alla battuta di questo calcio di punizione. Sono tutti i giocatori dell'SD Cervello Calcio in posizione difensiva. L'arbitro fischia, parte la battuta in mezzo nei fronti di Blandino, ma Villafranca controlla di testa e la rilancia lunga. Villafranca nuovamente la però per Brocato con un salto plastico, blocca la palla e la butta di nuovo in rimessa laterale. Sarà comunque rimessa dal laterale per favore dell'equipe Palermo. Di Leo va alla rimessa per il suo compagno Blandino, però finisce a terra Blandino, ma l'arbitro non fischia niente. C'è subito la ripartenza in attacco da parte del Cefalù, un rilancio che però è subito facile presa da parte di Lombardo però perde palla per il compagno Sorci, però spinta regolarmente da parte di Geraci, quindi sarà calcio di punizione per l'equipe Palermo. L'equipe Palermo che in questi ultimi minuti di gioco sta cercando di velocizzare la sua manovra. Adesso il pallone va a Sanso che però controlla la palla, ma Brocato in maniera quasi dominante ruba palla e la rimette in mezzo per Cane sulla linea di centrocampo, però perde palla e la riprende Lombardo però perde palla e adesso prende Geraci prova D'Amico, prova Culotta a prendere il pallone spinto in maniera irregolare da parte di Blandino che però riesce a conquistare una rimessa laterale. Adesso nuovamente l'equipe Palermo a riniziare la manovra offensiva con Lombardo che la passa lunga ad Abate però controlla male, però riesce a prendere il pallone in Cucuzza di nuovo per Lombardo viene pescato in posizione di offside e l'azione viene bloccata. Vediamo che comunque c'è il Cefalù che sta adesso momentaneamente subendo la posizione da parte dell'equipe Palermo. Sono stati comunque assegnati 2 minuti di recupero. Vediamo se questi minuti il Cefalù riuscirà a siglare il secondo gol o se l'equipe Palermo cercherà il gol del pareggio. Subito Villafranca per D'Amico il centro per Culotta che però Bercicio, scusate, che viene spintonato, ma l'arbitro non fischia. Blandino ora per Sanso che è tornato all'attacco per dare una mano difensiva. Adesso pallone lungo per Cucuzza. C'è Schicchi che però che blocca il pallone, viene anche spintonato e sarà però rimessa sarà calcio d'angolo a favore dell'equipe Palermo. L'ultimo tocco è stato quindi di Schicchi, quindi peccato perché Schicchi poteva semplicemente appoggiare il pallone a Fiducia che era vicino all'azione di gioco, ma ha deciso comunque di spingere il pallone in calcio d'angolo per evitare peggiori conseguenze. Subito Ligia Virtus adesso in questi ultimi minuti sta cercando di andare in avanti per cercare il gol del pareggio. Grande Muccio in posizione nell'area di rigore di Fiducia. Vediamo comunque anche soprattutto il numero 4, Blandino ad arrabbiarsi moltissimo in sei dimensioni. C'è subito però il tiro di Sanso intercettato da Cicero che è tornato in posizione difensiva, pallone in mezzo per Gennaro cerca di salvare la palla, va bloccato a prendere il pallone, riesce però a intercettare Villafranca al centro dell'area, di nuovo però ancora l'equipe Palermo che però riesce il nostro giocatore schicchia, prende la palla con la testa, poi successivamente viene atterrato dal numero 8 Sarnino e sarà calcio di punizione a favore del Cefalù. Cefalù che quindi adesso può respirare un po' dopo questa ultima offensiva parte dell'equipo Palermo, mette il fischio dell'arbitro, quindi si ferma qua il primo tempo, quindi qua lo stadio campo sportivo di Palermo, la partita del quinta giornata di promozione tra equipe Palermo e SD Cefalù Calcio, il risultato è di 1-0 per gli ospiti col gol di D'Amico sul calcio d'angolo di testa. Matteo, allo studio. Matteo, mi senti? Pronto? Pronto? Sì, Matteo, mi senti? Sì. Allora, chiudiamo questa prima frazione di gioco. Niente male. Va bene, ok. Dicevo, chiudiamo questa prima frazione di gioco dicendo, okay, ricordando il risultato di 1-0 per la SD Cefalù. Mi senti adesso bene? Sì, ora sì, sento. Perfetto. Allora, diciamo un piccolo commento prima di chiudere questo primo collegamento, poi ci risentiremo subito dopo per l'inizio della ripresa. Allora, il Cefalù come ha giocato? Praticamente un tuo commento di chiusura in finale di primo tempo. Ma il Cefalù in questo primo tempo ha dimostrato i numeri in campo, nel senso che ha giocato molto bene sfruttando le posizioni lasciate libere da parte dell'equipe Palermo, che è sembrato nettamente in difficoltà con la nostra squadra. Fortunatamente negli ultimi minuti però gli uomini di Minutella hanno lasciato un po' il gioco all'equipe Palermo, che ha rischiato di andare in vantaggio. Comunque sia, al momento il Cefalù sembra poter controllare la partita e soprattutto di dimostrare una grande maturità in campo che nelle scorse partite forse non si è vista molto. Benissimo Matteo, allora riposa un attimo la voce per circa 10 minuti, noi riprendiamo la linea dallo studio di CRM Piredio e dunque ci risentiamo e ci ricollegheremo di nuovo con Palermo fra 10 minuti circa. Ciao Matteo, a dopo. A dopo. Bene, e allora noi riprendiamo la linea dagli studi di CRM, adesso un po' di musica e poi naturalmente il collegamento ancora con Palermo per il secondo tempo di questa partita e linea poi a Matteo Di Fina.